Ciao! Sono una lenticchia rossa ricca di proteine, ma i miei estimatori amano gustarmi sotto forma di sedanino. Con i sedanini di Lenticchie Felicia, il benessere non è mai stato così invitante. Felicia, fatti di un'altra pasta. Ciao Michela. Ciao. Tu che sei una persona studiata. Studiata, sì. Che hai studiato, conosci le leggende, conosci le storie. Mi raccontavi una cosa. Sì. Una leggenda relativa a un animale che noi citiamo spesso, il tapiro. Sì, sì. Perché tu una volta sei uscita dicendo una cosa e noi ci siamo messi a ridere, però tu dici no. È vero. È vero. Spiegaci. È da manicomio, però è vero. Allora, in un esame di storia delle tradizioni popolari, ho potuto approfondire il fatto che... Popolari di chi? No, non era storia delle tradizioni popolari. Era storia delle religioni... Religioni popolari. Primitive. Primitive. Dei popoli primitivi. Primitivi. Oh, qualcosa... È un po' popolare. No, perché sai... Andiamo al succo. È noto che la mia facoltà è la facoltà dei... Ecco, questo è abbastanza inutile questa cosa. Degli scemi, dato che studiano i tapiri che... e niente, quindi... Veniamo al succo, il veniamo tapiro. Veniamo al succo, il tapiro. Secondo... No, tu non per secondo, il secondo è venuto dopo, tu hai detto al tapiro. E il tapiro, quando lo ferisci, non sanguina, defeca. Defeca. È così, è vero. Cioè, ma defeca nel senso che è ferito e quindi fa la cacca o esce la cacca al posto del sangue? No, ti piacerebbe che uscisse la cacca al posto del sangue? Avete mitizzato tutto. Ah, ma allora non è così. Cioè, allora che vuol dire? Tu lo ferisci, lui defeca, che vuol dire? Mi fa la cacca. Cioè, si mette lì, ah, mi hai ferito, pff, e fa la cacca. Sì. Ma quella è la più bella prima questa Eh cosa. Sì, però che sanguina a merda lo possiamo dire lo stesso, dai, ci frega. Quindi se tu spari al tapiro sanguina la merda. Sì. O caga, è uguale. Sì. E questo chi è che lo diceva? Levi Strauss, però non ne sono più tanto convinta. No, però sì, avevo letto dei... Ma Levi Strauss non è quello dei jeans? No. Esiste anche un noto antropologo. Credo che i jeans abbiano preso il nome da lui, da quello che... Capito, lui lo diceva, ma chi è che lo diceva secondo quello che lui aveva scoperto? Glielo dicevano gli indiani d'America. Ah, ok, quindi i popoli primitivi che vivevano in Brasile, in... Eh sì, perché il tapiro è un animale centro-sudamericano. Sì. Ok. Anche in Argentina. Quindi nella nostra trasmissione che sta per partire... Sì. Praticamente, quando noi diciamo il sangue del tapiro, intendiamo la merda, ed è la rubrica dove si raccontano leggende metropolitane. Certo, come quindi, questa. Quindi se tu gli spari al tapiro, il tapiro muore e caga. Sì. E se invece il tapiro muore di bestemmie? Porco de due! Benvenuti al fantastico podcast che noi, non voi, noi da tanto tempo ambivamo fare, il podcast nel quale non ce ne frega un cazzo e diciamo le imprecazioni malevole. E con me, vicino a me, proprio fisicamente, come quasi sempre, c'è Stefano Gualdi. Ciao Bruno Pizzi, io volevo soltanto... Non sono Bruno Pizzi io, tu sei Stefano Gualdi. Bruno Pizzi. No, non sono Pizzi. Bruno Pizzi, io sono Stefano Pizzi. Sì. Comunque, vabbè, no, io non capisci un cazzo. No, io sono molto offeso perché non si bestemmia il 2, io ci credo al 2. È vero, il 2 non si deve bestemmiare. Cosa bestemmiamo? Credo. Qualche altra cosa, poi vediamo durante la sera. Lo chiediamo allora a Stefano Raccuglia. Io parco a tutti. Benvenuto Alex Raccuglia. Diciamolo subito. No, che non sono Alex, sono Stefano Raccuglia. Scusa, sbagliato. È Stefano Raccuglia. Diciamo che questo è il podcast che noi volevamo fare. Alla gente fondamentalmente non frega un cazzo, probabilmente noi facciamo una cosa, vi suggeriamo immediatamente, così come facevamo con Multimania in radio. Non potete telefonarci in diretta per ora, però prima o poi lo potrete fare, ma comunque scriveteci e insultateci malamente, e noi risponderemo con delle biastime. 6459914 risponderà. 555 e boh, che volete vaffanculo, vecchia. Ok, allora Stefano Raccuglia, diamo così una spiegazione molto veloce e poi entriamo nelle tre rubriche fondamentali, perché questa è una puntata prima, dove però ovviamente abbiamo un tema focale. Il tema fecale lo sappiamo, ne parliamo dopo. Non hai detto il nome di questo podcast, che è? Morti di bestemmie, sì, l'ho detto all'inizio. Mamma mia, che brutto, che cos'è? Non lo so, diciamo che è un growl di bestemmie sottostanti. Però deve essere interessante. Secondo te ci sarà un, caro Stefano Gualdi, ci sarà un gruppo heavy metal che bestemmia in growl? Sì, sarà Stefano Blast, gruppo di bestemmiatori in growl. Ma voi lo sapete che su Giamendo, scusa, non c'entra niente, c'è una band heavy metal spagnola che si chiama proprio... proprio così, Porco dei due, esatto. No, però Porco dei due è molto edulcorato, insomma. Okay. Una divinità suina. Sì, ma sì. Esatto, quella lì. Insomma, vabbè, Alex, dai, raccontaci. Sì, dai, Stefano, Stefano Raccuglia. Sì, mi confondo con, capita con che possa rispondere a questo nome che io non conosco. Allora, esatto. Morte di bestemmie è uno spin-off. Perché è nata come rubrica, credo che sia andata avanti solo due volte, in un podcast che ha avuto quattro puntate, credo. Che è stato il mio primo podcast qui su Italian Podcast. Esiste ancora Italian Podcast Network? No, non esiste più. Sulla food Italian Podcast Network, che è chiusa. Che morte di bestemmie. Esatto. Insomma, avevamo inventato questa rubrica che era Morti di bestemmie, in cui ce la prendevamo di volta in volta con qualcuno che ci faceva incazzare. E ci sta. E allora a un certo punto questa cosa della morte di bestemmie ci è rimasta dentro e abbiamo accumulato talmente tante bestemmie che a un certo punto ci siamo detti: oh ragazzi, facciamo un altro podcast perché abbiamo troppe bestemmie in corpo. Ed eccoci qua a bestemmiare contro il personaggio di stasera. Lo tirerai fuori tu più avanti, però vi lascio. Sì, però la cosa, esatto, bestiale è che stasera mi sento di difenderlo, questo personaggio, per cui... Ma pensate che strano. Insomma, quindi praticamente questa, caro Marco, sì, Stefano Gualdi. Non ce la farò mai a fare questa cosa, però va bene. Caro Stefano Gualdi, questa questione delle bestemmie si è talmente accumulata che alla fine non era troppo poco una rubrica. Dicevo che la rubrica sarebbe stata qualcosa di limitante, per cui abbiamo deciso di farne due. Però dico, perché fare due rubriche così a cazzo? Facciamone tre e facciamoci un podcast. Esatto. Quindi è stata una cosa molto lavorata e pensata. Quindi abbiamo deciso di prendere tutte le bestemmerrime che avevamo dentro. Ce ne so, perché ce ne saranno nelle prossime puntate. E voglia tirarle fuori e parlarne così, diciamo, perché è un po' come l'alcolista che dice: io sono alcolista e non bevo da tre giorni, da sei ore e quattro minuti. Noi invece bestemmiamo da sei anni, quattro mesi e tre giorni. Allora, considerate una cosa e poi partiamo subito con la prima rubrica, che questo podcast è stato talmente, non improvvisato, è stato pensato tantissimo, ma non abbiamo la scaletta, non so neanche se ci abbiamo i brani, non so un cazzo, quindi andiamo un po' così, insomma. I brani sono il male, io bestemmio contro... Però i brani sono interessanti, perché in realtà anche quelli possono essere fonte di biastime. Comunque sappiate che abbiamo veramente accumulato tanta roba e chi ha visto il trailer, insomma, capisce, insomma, che faremo anche riferimenti televisivi. Ci sono dei riferimenti di questo podcast, ma non li diamo perché tanto sti cazzi, no? Nel senso, se volete ci trovate, se non ci trovate anche sti cazzi, insomma. Però se volete ci trovate anche su Twitter, cercateci, quindi non vi dico neanche com'è l'hashtag, no, l'hashtag let e via dicendo. Quindi partiamo subito con la rubrica fondamentale. Proprio la rubrica che dà il nome che al si podcast. Stefano. Che si chiama Stefano. Morti di bestemmie. Benissimo, allora, abbiamo pensato che l'argomento del periodo è ovviamente... 1, 2, 3... Porco dei due! Porco dei due! Porco dei due! Mi fa schifo questa cosa, però insomma l'argomento del giorno, noi siamo preparatissimi, eh? Sì, sì, siamo sì, proprio coordinati, una preparazione come se avessimo studiato a casa, broadcast proprio. Questo è un canto a cappella. Esatto, e vabbè, l'argomento del periodo è chiaramente Guerre Stellari. Allora, abbiamo detto, molti di noi hanno biastimato, molti di meno. Partiamo da visioni diverse, questo è importante, insomma. E l'unica visione concentrica che si focalizza è sul fatto che J.J. Abrams deve morire di bestemmia. Assolutamente. Esatto, però poi sul prodotto finale di questo film nello specifico, quindi episodio 7 di Star Wars, anche intitolato Stefan Wars, esatto, anche intitolato Il risveglio di Stefano. Abbiamo delle visioni diverse. Per esempio, ieri sera, ma Stefano Gualdi ha fatto lo show da Shuren e spero che stasera replichi, ma Stefano Raccuglia invece ha una visione più moderata, diciamo, quasi filo Star Warsiana. Innanzitutto Raccuglia, pentiti quante volte. Esatto. Sapete, l'hashtag del periodo è ovviamente, oltre a Star Wars merda, è Raccuglia pentiti per me, poi insomma fate voi. Vai, io sono andato al cinema, l'ho visto credo alla prima italiana pubblica alle 10 di mattina del 16 dicembre alla Cinema Arcadia di Melzo, che salutiamo. Porco de due, che già Arcadia che è la moglie. Esatto. Stiamo andando già, siamo caldi, sì, esatto. E con mia mamma, perché volevo a lei, insieme a Guerre Stellari, è sempre piaciuto, è stata lei che mi ha portato nel 1978 a vedere il film. Allora ho detto, mi sembrava giusto da parte di figlio di portarla a lei, e lei comunque è una che se li gode sti film. E andavo al cinema veramente con già le bestemmie pronte, cioè avevo proprio una valigia piena di bestemmie, perché a me J.J. Abrams prima di fare Star Trek non dispiaceva, però poi è diventato troppo vittima del suo stesso personaggio. E Star Trek, che a me non è che ha dato fastidio, però devo dire la verità, mi ha molto deluso, perché è veramente il tipico film commerciale di questo periodo, che può piacere ai rincoglioniti dell'Iowa o ai ancora più rincoglioniti di Shanghai. Cioè, niente contro quelli dell'Iowa o quelli di Shanghai, però tendenzialmente il pubblico americano è devo capire cosa devo fare, e quelli cinesi ancora di più non capisco un capo, c'è proprio lo spiegone, c'è una teoria che quindi facciamo morire di bestemmia anche i cinesi hanno bisogno dello spiegone. Se non gli fai lo spiegone, magari proprio gli piace, proprio l'hanno già capito, ma vogliono comunque sentirselo dire. È bello questa cosa qua. Dopo 70 anni di comunismo, insomma, sfido io. Sì, vabbè, però è un comunismo così. Il vero comunismo non c'è mai stato nel mondo, diciamocelo. In Cina, in particolare. Esatto. Vabbè, allora, fondamentalmente, io vado al cinema col mio carico di bestemmie e devo dire che per i primi 30, no, primi 20 minuti ho detto, mica, ma che roba carina sta roba. Mi sta piacendo, cioè. Non capivo, anche perché il film inizia veramente in media res, cioè proprio così, ti tira fuori un sacco di cose e appunto ti tira dentro. Poi dopo l'atto centrale, il secondo atto, è un po' moscio per certi versi, però ma ci sta che ci sia un po' più di respiro. Rispetto comunque a tutti gli altri film della saga, ha molto più ritmo, perché me li sono rivisti tutti ed erano tutti mosci per certi versi. Questo ha molto ritmo, succedono sempre un sacco di cose. Mi ero innamorato follemente del personaggio di Rey, la ragazza, e sul finale devo dire che, pur essendo una copia spudorata di episodio 4 e di episodio 5, devo dire che ha funzionato. Io mi sono detto, questa roba qua è Guerre Stellari, nel bene e nel male. Ho tirato via un po' di bestie e mi ho detto, vabbè dai, potevano fare molto peggio. Devo dire che ho rispettato, per quanto si possa rispettare, la casa del topolino con le orecchie grandi, e mi sono detto, vabbè, funziona, uno stato d'animo più positivo che negativo. In realtà sono uscito dal cinema con due personalità: una che diceva, cacchio, ho ritrovato Guerre Stellari; l'altra che diceva, sì, però cacchio, è una copia spudorata, è un remake, un reboot, un'altra, cioè non c'è niente di male. E in più mi è sembrato che il grande colpo di scena che è stato svelato insieme alla bestemmia a Capodanno dalla Rai, mi è sembrato un po' forzato. Quella un po' come dire, un'opera di marketing nostra. Esatto. Era un teaser trailer della nostra trasmissione direttamente sulla Rai, mi piace. Mi è sembrato un po' forzato, un po' come dire, dobbiamo ficcarci dentro sta roba, mettiamogliela dentro. Notare che non ho fatto spolla, Beh, diciamo che era poi uno spoiler telefonato. Diciamo che non dovremmo fare lo spoiler, anche perché sti cazzi. Cioè, sì. Beh, in una trasmissione come Morti di bestemmie, oramai considerando che Star Wars sta anche per uscire dalle sale, tra l'altro. Dobbiamo fare una bella disamina del film, per cui esatto, io spoilerò. Diciamolo che Han Solo muore. Ecco, diciamo, a me mi ha fatto girare il cazzo che non è Han, ma è Han. E devono morire di bestemmie. No, io, guarda, forse è l'unica cosa che ho trovato strano, perché in effetti in realtà questo film nella localizzazione italiana non è stato coerente. Non è stato coerente perché in realtà, voglio dire, Han Solo, Leia, però poi alla fine no, Vader, è Jedi. Vader. Già il fatto che c'è Vader e non Fener, ma cioè per me è male, già. Quando nella trilogia. Sì, però dai, però ci sta nel voler un attimo ridare anche no, mettere un po' d'ordine. La cosa che non ci sta è quando tu mi dici Jedi e no Jedi a quel punto, no? Gli dice, no, vabbè, ci sta. Ripeto, è il fatto che io sono cresciuto con C1, P8, stai bene, non sei rotto, R2 di 2 no, se lo R2, possono infilare esatto. Super il culo, super ma è vero, dalle gambe devono infilarselo super il culo. Quindi anche i localizzatori devono morire. Sì, ma non è colpa dei localizzatori. Così. In questo caso credo che sia volontà dall'alto. Perché quando c'è stata la prima trilogia. Disney. No, Disney. No, la vecchia trilogia, la nuova trilogia, quella da episodio 1, 2, 3. Io chiesi a un tizio che c'era. Ho fatto un'intervista a un tizio, non mi ricordo per quale motivo. E lui ha detto: no, ragazzi, sono stati ordini dall'alto. La Lucasfilm stessa ha voluto questo. E già lì. Povero George Lucas, secondo me ha un po' di demenza senile di suo. Cioè, gli voglio bene, perché gli voglio bene come a un nonno. Però. No, io gli volevo bene. Ma tu sei fatalista, tu sei bianco nero. Io volevo bene, secondo me, guardate, poi nella lista, poi dopo continuiamo nella disamina. I morti di bestemmie di questo primo episodio sono George Lucas, J.J. Abrams. Vabbè, Disney è già morto da bestemmie. Tre quarti del condominio di J.J. Abrams. In realtà Disney, quando ma sono stinti gli ebrei, no, allora ricongelatemi. Questo è un po', secondo me, il sunto di tutta questa cosa qui. E poi, ovviamente, pure Spielberg è uno di quelli che finirà tra i morti di bestemmie. Ma non spoileriamo. Diciamo, comunque, Alex... Perché lo faccio io. Quindi. Che al di là di questa questione della localizzazione... Diciamo a te, comunque il film ti ha dato delle vibrazioni piacevoli, sì. Ti ha riportato un po' indietro nel tempo. Sì, aggiungo che a me il personaggio di Kylo Ren è piaciuto e mi è sembrato molto coerente. E qui lo stai per dire, perché qui rischi tu, che sei l'autore di una trasmissione, si chiama Morti di bestemmie, stai rischiando di suicidarti di bestemmie. Ah, va bene, bestemmiatemi conto. Cioè, ok, è ovvio che quando si toglie la maschera dici. Che è sto bimbo minchia, ma poi in realtà è bello che sia un bimbo minchia. Ma è Final minchia. Fantasy quello. È bello, cioè. Che sia un bimbo minchia, è un ragazzo super dotato, in conflitto col mondo, in conflitto con il padre, e c'è gli girano i cazzi, solo che ha i superpoteri in qualche modo, perché comunque è un film fantasy, cioè. E allora. Spaccatura! Poi scusate. Il conflitto con il padre non si è capito perché, cioè in realtà non si è, cioè Han Solo non è, non te lo spiega, in realtà bisognerebbe neanche ce lo spiega Disney in questo nuovo corso, diciamo, universale dei film e dei telefilm. Oggi non si sa perché uno non deve più guardare un film o un telefilm, ma se deve leggere i libri, il fumetto, la carta igienica scritta, esatto, cioè tutto quanto, perché ovviamente non si può più fare narrativa normale. Adesso c'è la metanarrativa, no? Dove tutte le cose se incrociano, se cosano, si influenzano a seconda dell'opinione del pubblico. Quindi sono tutte le cose che devono morire di bestemmie anche loro. Però comunque a te il cattivo ti è piaciuto, insomma. Sì. Ma fatto cagare a spruzzo. Ma come mi fa sempre cagare a spruzzo, adesso potete bestemmiarmi contro il capo dei cattivi. Il Loro Groscio, che è fondamentalmente Andy Serkis, che fa sempre Andy Serkis, cioè lui ha sempre questo cazzo di anello infilato so io dove, e fa sempre lo stesso personaggio, sia che faccia lui, che faccia una scimmia, che faccia il cattivo di Guerre Stellari. È sempre il mio tesoro, il tuo tesoro, ficca dall'arculo il tuo tesoro. Che cazzo, bisogna dirle le cose, cioè tutti Andy Serkis, sei bravo, sei bello, aspettati, spannami, no, vaffanculo. Vabbè, ma questo poi dopo lo vedremo nei prossimi film. No, vabbè, però cioè, effettivamente, voglio dire, non è tutto sto... Cioè, in realtà la parte cattiva di questo primo film, cioè, c'ha il carisma, sì, proprio di un moscerino frocio. Il miglior, insomma, cattivo, no? È Capitan Phasma, che fa 5 minuti, 2 dei quali viene veramente minacciato di morte e si caga addosso. Finito. Insomma, mi è piaciuto tanto questo personaggio che è stato creato appositamente per vendere i pupazzetti dello Stormtrooper argentato. Esatto, insomma, cioè, esatto. È lo scopo fondamentale. Molto utile. Anche qui morte di bestemmia, appunto, verità. Ah, poi c'è cosa? C'è il cameo di Daniel Craig, utilissimo. Sì, questo dicono loro, per noi potrebbe anche non essere vero. Perché potrebbe semplicemente aver dato la voce. Ma esatto, come quella lì del Trono di Spade, lì, la tizia. Ma quello potrebbe essere già più plausibile. Perché insomma, era alta. Quella stessa doppiatrice, poi. Vabbè, secondo me c'è un po' da lavorarci sopra sui cattivi, insomma, cioè, pure lì il roscetto che fa il capo. Ah, ecco che volevo dire. Volevo dire che riflettevamo proprio ieri sera riflettevamo sul fatto che c'è l'ammiraglio, no? Cioè, come su tutti i film di Star Wars c'è sempre l'ammiraglio. Però il padre o lo zio di quest'ammiraglio gli ha telefonato a un certo punto, gli ha detto: "Ai tempi miei, quando ero ammiraglio io, sai quanti inammazzati, strozzati da ammiragli ne cascavano due o tre a firme?" Io quando ho cominciato ero guardia marina, dopo tre mesi ero quasi ammiraglio. L'unica cosa che invece mi sorprende è la strisciata di sangue. La strisciata di sangue? C'è la strisciata quella della manata di sangue sullo sul casco. Wilson! Questa è una chiara citazione di Castaway. Esatto. Beh, il pallone zozzo di sangue, insomma, pure quello faceva il suo dovere. Insomma, vabbè, morivano gli ammiragli e mo non muoiono più. E questo ammiraglio stava là e quello il nonno gli telefonava e diceva: "Ma io è l'età mia, mi siete proprio rinfeliciati. L'età mia se ne morivano tre a firme." E vabbè, questo insomma. Però, detto tutto queste insomma stronzate, parliamo proprio del film a questo punto, perché beh, io potrei raccontare di quella galassia piccina, sì, ecco, piccina. Ecco, c'è la disamina di Stefano Gualdi, che è importante. Allora, io praticamente guardando questo film ho scoperto che per J.J. Abrams, forse per Kasdan, ma penso più per J.J. Abrams e per la sua cricca, perché queste cose c'erano anche sui due Star Trek che sono stati recentemente fatti, la galassia è all'incirca un migliaio di metri quadri. Ah, sì, è vero. Come grandezza. Allora, voi dovete capire che questa cosa si evince, insomma, da diverse situazioni che adesso andrò a raccontare. E poi vorrei anche, diciamo, sì, ma un po' di ritmo, mettere, però. Vorrei anche mettere. Eh sì, ma io sono ancora ferito, sono dolorante. Cioè, praticamente questa cosa della forza, che negli altri film era una, diciamo, un qualcosa di celato dietro le quinte, che dava qualche colpetto di lì e faceva succedere le cose che poi davano via a tutto questo. È il fato dei film fantasy, c'era la provvidenza. C'erano i droidi che venivano presi dai Javas e poi casualmente venduti alla famiglia di Skywalker. C'era l'astronave che atterrava su Tatooine nell'episodio 1 e poi casualmente trovava una giovane Anakin. Però tutto sommato erano quelle le piccole, diciamo, le gomitate che dava questa forza. Aiutava gli eventi. Ma andiamo a vedere con pieno di spoiler che cosa è successo in episodio 7. Allora, noi ci troviamo su questo pianeta Jakku, mi sembra che si chiami. Mi ricordo. Jakku. Ma sì, è un siciliano che parla di me, Jakku. Jakku. Insomma, questi qui si trovano, cioè Poe Dameron, che è uno dei protagonisti del film, si incontra con Max von Sydow, che gli dovevano dare lo speech probabilmente per dare un po' di caratura al film, perché hanno trovato la mappa per raggiungere Luke Skywalker, che è sparito. Quindi tu non è sparito, si è dato. Però evidentemente ha fatto delle mappe, perché dice: "Se no me perdo, io me do. Però perché poi se me perdo non mi cercate, ma se volete ecco te." E quindi che succede? Arrivano poi quelli del primo ordine, che cominciano a ammazzare tutti quanti, e Poe Dameron ha un'idea geniale ed originale: nascondiamo i piani della morte, nascondiamo la mappa di Luke Skywalker dentro al droide, al robopalla, il famoso robopalla che si chiama BB-8, ma per noi è robopalla assolutamente, il primo trailer già era robopalla. Ora Jakku sono in circa 40-45 metri quadri, perché il giorno dopo Rey, la protagonista della storia, lo trova. Dice: "Ok, adesso sei mio", lo prende e se ne va su questa cittadina che sta 2-3 metri dopo che l'aveva trovato. Nello stesso tempo, casualmente, l'unico stormtrooper nero, perché non abbiamo prove che ce ne siano altri, esatto, l'unico che ha una coscienza, tra migliaia e migliaia, è nero, giustamente, perché il nero è buono, quindi buono. Qui c'è la cosa, è l'unico che si sì, fa ma venire, se vince Trump, via tutti questi, il messicano demo non può via, infatti l'hanno lasciato in coma, infatti l'hanno lasciato in coma via, e comunque la prossima puntata comunque, ma tranquillo. E praticamente che succede? Che questo, l'unico che ha questi dubbi, si ritrova proprio a fare nel suo primo intervento armato e si rifiuta di sparare perché c'ha la crisi di coscienza. Quindi, visto che casualmente hanno catturato Poe Dameron, che è un pilota, dice: casualmente io lo libero e sedamo. Questi però, mentre scappano, vengono abbattuti e precipitano sempre su Jakku, perché stava a 3 metri dopo rispetto all'astronave, e precipitano in mezzo a questa palla di sabbia, immaginiamo una palla di sabbia di 40 metri quadri, precipitano, e dopo un po' il nostro amico nero Finn ritrova in questi 40 metri quadri Rey. Arrivano di nuovo i soldati del primo ordine e decidono di rubare con la prima cosa che gli capita, cioè il Millennium Falcon. Casualmente stava lì pure questo. Loro scappano, riescono a scappare, ma a circa 7-8 metri dopo il pianeta, perché sapete che la galassia è piccolina, gli si rompe il motore. Tempo 5 minuti e chi ti arriva? È Han Solo. Dice: cazzo, ma ero scordato sta... Han Solo, scusate. Stefan Solo. Arriva Stefan Solo che dice: cazzo, io me l'ero perso qualche anno fa, non riuscivo a trovarlo perché la galassia non perde niente, ma semmai nasconde. E quindi ritrovano questo Millennium Falcon e decide di aiutare la ragazza. Come aiutarla? Beh, portiamola da sta tizia, che non mi ricordo come si chiama, la tipa. Mascherata. Mascherata? Mascherata va benissimo. Per me, mascherata. Si chiama Stefano anche lei. Stefano Mascherata. Vanno su questo pianeta e che cosa scopriamo? Che casualmente la signora mascherata, Stefano mascherata, c'ha la spada di Anakin Skywalker. Casualmente. No, c'è quella di Luke. Di Anakin Skywalker, che quella di Luke Skywalker era verde. Quindi questo particolare tenetelo a mente, perché poi se lo scorderanno. Perché tu dici JJ se lo ricordi. No, vedi che non sai la cosa. Quella è la spada di Luke Skywalker che gli viene tagliata, che parte insieme alla mano. Quella è la spada di Anakin Skywalker che viene data a Luke Skywalker da Obi-Wan. Quindi quello che ti sto dicendo è assolutamente vero. È vero. Quindi quando lui che roba da nerd, oh. Che roba da nerd, che schifo. Quindi quando J.J. Abrams si ricorderà che era la spada verde, probabilmente faranno un piccolo lavoro su Blu-ray e la faranno diventare verde. Esatto. Però tranquilli. Esatto. O forse ci spiegheranno. Quando esce il Blu-ray poi correggiamo. O forse ci spiegheranno che magari era veramente quella di Luke Skywalker. Comunque casualmente anche questa spada sta qui. Nello stesso tempo. O poi il cristallo si invecchia, cambia colore. Cambia colore, è vecchierrimo. Nello stesso tempo il mega cazzutissimo ammiraglio roscio, come si chiama? Al-Akbar. Al-Akbar, lui decide che di porre fine alla Repubblica e mette in moto la nuova morte nera che si chiama Starkiller, che in realtà è un intero pianeta di 80 metri quadri circa, all'incirca come dimensioni. Nello stesso tempo arrivano gli imperi, quelli del primo ordine, su questo pianeta dove c'è sta mascherata Han Solo e Rey, botte da Orbi, e Rey viene catturata, poverina, la portano via. Nello stesso tempo, 50 metri dopo, quindi su questo pianeta che assorbe i soli e li spara sui pianeti, decidono di abbattere la Repubblica. E quindi, per fare questo, prendono l'intero esercito fatto di 10.000 uomini, li mettono sul pianeta e dicono: guardate, adesso distruggiamo la Repubblica. Distruggono la Repubblica con un raggio che va più veloce della luce. Quello per forza deve andare da un'altra parte, ma no, non tantissimo in realtà. 100 metri dopo, esatto. Deve andare 100 metri dopo a distruggere un pianeta e i suoi 3 satelliti, che sta in realtà, se fossi una galassia normale, starebbe magari a anni luce, ma è una galassia di 1000 metri quadri circa. Esatto, lo vedi dall'atmosfera sul pianeta dove dall'atmosfera sta Han Solo, in realtà si vede il pianeta di su. Ma questa è una citazione che è un'altra bella merda. Esatto, che è la citazione che devono morire di bestemmie, perché certo. Chiaramente è la citazione di e Star riesce Trek a vedere stesso. Riesce a vedere, essendo ovviamente distante 80 metri questo pianeta, 60-70 metri, visto pure casa sua che prende a poco. questo, vedete, il pianeta e tre satelliti e casa sua che veniva appunto distrutto dall'incendio. È bellissimo, anche qui caso a tutte le cose molto, molto casuali. E la forza, comunque andando un pochino avanti perché dovete raccontare tutto quanto il film, decidono di andare su questo mega pianeta distruttore e distruggerlo con l'unico punto debole, perché c'è sempre un punto debole, dove casualmente chi c'è stata rinchiusa su questo pianeta di 80 metri quadri, c'è stata rinchiusa Rey, che ovviamente sta lì e viene salvata. Non è Peter Rey. No, è Stefana Rey, che appunto è la nostra eroina, che casualmente sta proprio lì e quindi è molto più facile da salvare. Diciamo che questo, più che il risveglio della forza, è un po' più il risveglio della forzatura. Perché insomma ce ne sta qualcuna, insomma, come in termini tecnici, ma in realtà ci sarebbero anche tante cose, insomma, possiamo dire, tipo, che ne so, che lei a un certo punto inizia a fa spadaccina del laser e poi a un certo punto la forza mi ricordo che io ho la forza, perché poi lei è addestrata nelle cose della forza, ma sappiamo, non lo sa, ma abbiamo lei. Capito, però esatto. In qualche modo lo ha però lei non lo sa, o lei lo sa e fa finta di non saperlo, oppure siamo noi che non lo sappiamo, che oppure può... Secondo il mondo Disney oggi la forza in realtà basta avercela, è una magia, esatto, come dice il solo, è una magia. It's a kind of magic. E comunque in tutto questo bailam di personaggi che frignano, corrono ed esplodono, abbiamo anche la possibilità di vedere appunto Capitan Phasma, che compare in 5 minuti scarsi, dice due battute nelle quali praticamente si caga addosso, come abbiamo detto prima, quindi un personaggio cattivo molto utile. E abbiamo il nostro amico Frignetta, come lo chiama lei Ortolani, che praticamente è il cattivo che lo vogliamo rendere bene questa cosa, qui ci vorrebbero degli effetti sonori sulla voce, però vabbè. Io sono il cattivo, te faccio un culo così, adesso spacco tutto. Lo sapete chi so, levate la maschera. È facile parlare così, c'è la maschera. Leva la maschera. Lo so io. Rimettete la maschera, adesso sono cattivo, te faccio un culo così. Cioè, questo è un po' il senso, insomma. Allora, guarda, quella è la cosa che forse probabilmente potrebbe anche... Ci potrebbe anche stare, un po' come i capelli di Sansone. Esatto, dici, i capelli sono forti. È una persona che praticamente è insicura. È insicuro. Quindi è tentata dal lato chiaro, perché è preso dal più brutto dei Final Fantasy, comunque le famose tentazioni del lato chiaro, che è questa cosa che non si è mai sentita, ma ci può stare, tanto queste guerre stellari, sti cazzi, devi fare attenzione al lato chiaro della forza, perché poi è subito lo diseduce, certo, perché è più difficile il lato chiaro della forza. La fai parlare anche Alex, ma Alex, è finito questa cosa, insomma. Alex, adesso la tua disamina del film. Allora no, sei troppo serio. Allora già sei partito male. Parto con le bestemmie. Allora, secondo me J.J. Abrams ha fatto troppi Lost nella sua vita, nel bene e nel male. Troppi trip, e tanti gli sono venuti pure male. Esatto, però dice: oh, figa, io ci metto dentro i cazzi di qua di là, tanto che cazzo me ne frega, i prossimi figli li fanno gli altri, così devo spiegare tutta la merda che ci ho messo dentro. Secondo me questa cosa qua se l'è fatta. Poi ha detto, pubblicamente detto: oh, ho letto la sceneggiatura di episodio 8. Ah, era figa, potevo farla io. Però sotto ho detto: ah, tiè, devi incastrare tutte le robe. E soprattutto l'ultimo film, che verrà diretto dal regista di quella merda immonda di Jurassic World. E chi non dice che è una merda immonda è una merda immonda lui stesso. Ma noi abbiamo evitato di vederlo, perché per noi già abbiamo un pregiudizio. Cioè, no, avete fatto. L'ho scaricato dal torrent, proprio, lo dico chiaramente. Frega che schifo, cazzo. Guarda, sei proprio passibile. No, guarda, sono proprio brutto. Sì. Sei passibile di bruttezza. Vabbè, insomma, lo scarica è probabilmente un film brutto, però è un film dei nostri tempi, perché è stato il terzo più grande successo storico per quanto riguarda gli incassi, prima che uscisse episodio 7. Non lo so, tutti: ah, sto regista, sei figo, sei bello, sei fiorello, non lo so, sei fotomodello. E adesso lui sarà il regista di episodio 9 e lui dovrà tirare le file di tutte le merdate che gli tireranno contro. Per cui non vuoi essere nei suoi panni, se non per episodio la paga. 8. No, episodio 9. Episodio 8 lo dirige un regista che ha fatto solo un film prima di questo, che è Looper. Looper non è male, ma cacchio, è un film dark, oscuro, minimalista, indie. Da passare da quello a un prodotto da 200 milioni di dollari, hai le spalle larghe per farlo? Domanda che mi faccio io. Ma probabilmente lì verrà diretto lui, probabilmente. Ma io comunque ho sempre un'idea sul fatto che noi abbiamo visto 3 o 4 film, se non sbaglio, diretti da J.J. Abrams, che ricordiamo, J.J. Abrams è un produttore televisivo, non è neanche uno sceneggiatore, che questo è importante, perché adesso c'è il mito di J.J. Abrams, che lui ricordiamo che faceva bello J.J. ricordiamo per cosa sta J.J. stupendo, ma tu sei un Jar Jar, giustamente. No, però è importante questa cosa, perché praticamente voi immaginatevi questa stanza dove c'è il produttore esecutivo, i vari produttori e X numero sceneggiatori, perché questo lavoro americano, lavorano in equipe, gli piace questa cosa che stanno tutti in equipe, se vogliono bene. E praticamente facciamo un film, gira un film, sì, che cosa? No, un telefilm, facciamo un telefilm, casca l'aereo sull'isola e c'è sta il fumo, il fumo, che figo. Adesso vi dico un'altra idea, poi uno vede il padre che cammina, il padre che cammina, e poi c'è la botola. Aspetta, c'è sta uno che era paralitico e torna a camminare. Camminare. E lui lo mettiamo al centro di tutto. E questi se lo guardano e dicono, ma noi con tutte queste cose che hai detto, che ci dobbiamo fare? Sono cazzi vostri, Piaciuta idea. Esce fuori un capolavoro che sono le prime tre stagioni di Lost. Perché dalle prime tre, perché poi dopo basta, no? Perché dalle prime tre stagioni erano ancora il periodo in cui facevano le domande. Esatto. E poi dopo sapere, ma che significa? Infatti, quando bisogna fare le domande, Abrams se n'è andato. Esatto, quando lo risponde. Questo è il lavoro che fanno i produttori, tirano fuori idee e producono, realizzano e fanno praticamente anche la parte autorale da un punto di vista a larghe maglie, diciamo, di questi che sono i progetti. A un certo punto J.J. Abrams è stato preso da Paramount, gli hanno dato tipo 50 milioni di dollari, l'hanno messo sotto contratto per X anni, e dice adesso ci devi fare tanti bellissimi film perché tu sei J.J. Abrams. E che è successo? È uscito fuori il primo Star Trek, vabbè. Però c'era anche un Mission diciamo Impossible, che sì, quello che è andato male al botteghino, però dice che è piaciuto, parecchia gente è piaciuto. Poi c'è stato Star Trek, che è vero, però gli ha ritirato sul franchise, cioè l'ha completamente stravolto, cioè le orioniane nella federazione, ha fatto un altro franchise, ci sono i vulcaniani che trombano le gnocche e via dicendo. Sa, però poi dopo alla fine, no, però secondo non era. E si è inventato come regista, che in realtà regista lui non è. Cioè, mo non è che tu nell'arco di tre anni hai studiato talmente tanto da poter essere regista. È chiaro che tecnicamente dietro c'è qualche cosa o qualcuno, no? E la stessa cosa vale perché Disney, che non è Paramount, perché Disney mica so coglione come la Paramount, gli dicono sì sì, io ti do i soldi, sì, però tu fai quello che dimo noi, perché il film è Disney. Prendono il registino così che dice, oh, questo c'ha talento, è giovane, due spicci in più gli fanno comodo, questo fa sicuramente quello che dimo noi. Perché questa è un po' l'idea che mi sono fatto io, insomma, del perché poi questi adesso in sei anni produrranno sei film, sì, di cui tre della linea canonica, tutti interessanti, più tre, no, spin-off, sono tutti canonici, uno più inutile dell'altro, poi cioè, eh? Sono tutti canonici, da quanto ho capito. No, sì, no, nel senso uno della linea in continuità, continuativa, esatto, e poi l'altro, okay, sono tre spin-off dei quali non sentiamo il bisogno, parliamone, cioè, la storia di Boba Fett, sti cazzi, sì, la storia, no, di Han Solo giovane. Di Han Solo giovane mi ricorda tanto un serial televisivo che andò benissimo, che tutti voi ricorderete, male, però, le avventure del giovane Indiana Jones, no, non era male, no. Non era male, ma due palle. Sì, male. Cioè, vabbè. Comunque, vabbè, dai. Però, insomma. E poi il terzo qual è? È quello, il terzo del Rogue Squadron, quando vanno a rubare i piani della Morte Nera. Cioè, ne vogliamo parlare. Che esce a dicembre di quest'anno. Quindi subito, insomma. È il primo che esce. 11 mesi, bellissimo. 12 mesi di merda. E sì, perché addirittura il secondo film della nuova trilogia esce a marzo del 2017. Maggio. E quindi escono quasi tutti appiccicati, poi alla fine. Infatti. Vabbè, comunque. Quindi, senza considerare che saranno facendo delle serie televisive, cazzi e mazzi, diciamo, dobbiamo esprimere questo brand, cosa che secondo me hanno già fatto, perché l'hanno pagato come il PIL della nazione, quindi è chiaro, esatto, che però ma secondo me i soldi con il solo merchandising, quello che ha dato la Lego, la McDonald's, forse no, ma chiunque, la team, tu alzi qualsiasi cosa, qualsiasi, oggi al supermercato c'è il walkie-talkie di Guerre Stellari, cioè, per bambini. Allora, se ti faccio una domanda, scusa, le macchine, scusa, ti interrompo, ti faccio una domanda proprio su questo, che magari tu sei più, perché io non riesco a capirlo, però io so strano, io devo dire la verità. Ma la Fiat che fa pubblicità della sua nuova macchina e ci mette dentro la marcia imperiale la Fiat, per esempio, Alfa Romeo, che cacchio è, mi ricordo, sì, e c'è il cagnolino vestito da giubbetta, e ci fa tutte queste cose qui, ma cioè la gente davvero va a comprarsi la macchina perché c'è Guerre Stellari? Ma no, ma secondo però, me la gente però è, che serve? È più riferimento pubblicitario del momento, dai. Sì, ragazzi, esatto, cioè, secondo me la gente sente la musica di Star Wars e guarda il televisore per capire che cosa sto guardando, per cui è un modo per non farti cambiare canale, perché comunque la gente cambia canale, cioè non è che cambia canale ma non le guarda, cioè se io guardo, cioè, parte la pubblicità e mi metto a guardare l'iPhone, cioè non me ne frega un cazzo, e io di mestiere faccio registri spot pubblicitari, per farvi capire. Quindi per spiegaci. Ha spiegato, cioè nel senso, comunque il richiamo già a Star Wars tende a, però, diciamo, a portare l'attenzione. Vende. Non vende, però. Questo sai. Non è questione, cioè, di vendere, cioè, o non vendere. Si hanno venduto un franchising così in maniera massiva, come mai nella storia, perché veramente neanche Lucas c'era riuscito con tutto il franchising. No, nel senso, fatto, non vende, no. Cioè non convince la gente a comprare. Cioè, te fa allora, attirare l'attenzione. L'automobile è difficile, perché l'automobile adesso non vende da nessuna parte. In Italia c'è un tracollo bestiale. Secondo me. Io mi metto nei panni dell'agenzia pubblicitaria. Oh, dobbiamo inventarsi qualcosa perché la gente fa ride. Allora dice, oh, facciamo così che cercano i Chewbacca. Oh, orco due fa ride. Poi la gente non si ricorda. Io non mi ricordo neanche che auto era. Io ci avrei messo la macchina che scureggiava, però. Lì quella, ma infatti, proprio tutto, aspetta che finisce quella stellare, ricomincia che Cozzalone, cioè scoreggia, viene fuori, per dirti. Cioè, e a me che Cozzalone piace. Cozzalone non fa le scoregge. Vabbè, Maccio Capatone, scopare, per dirti, cioè. Scopare, esatto, sì, esatto. Per cui, cioè, è solo una questione così. È ovvio che poi se sei Alfa Romeo non ci puoi mettere la scoreggia, dai, cacchio, perché magari è proprio nelle linee canoniche del brand, dici, no, il brand non deve essere associato ai piti. Però, possiamo andare molto hot, diciamo, vai, che la pubblicità dell'Audi, la pubblicità dell'Audi, insomma, guarda, cioè, l'hanno proprio cagato fuori dal vasetto. Qual è quella? Quella che ha la voce di Morpheus, gli dice: se state dentro sta macchina, vedete questo, ma provate questo. E non è proprio come questo. E però stai su questo, con razzo, Iron Man. Tutte, cioè, no, quante, no, quante, no, quella è esagerata, quella è cagata fuori. So fuori. Così. No, no, so quella no. Tutte. Di solito le pubblicità delle macchine sono tutte molto simili, però sono tutte molto focalizzate. E anche carine alcune. Ma questa qui di Iron Man, il razzo, il coso, dai, hanno cagato fuori dal vasetto. Ascolta. Non vedete questo, ma siete su questo e fate questo mentre che state facendo questo. Non è che possono farti vedere con questa macchina avrà il cazzo grosso. Ma perché, è una merda. Ma perché questo è il significato vero. Cioè, però questa macchina avrà il cazzo grosso. Con questa macchina vedere. Trombi come un riccio, magari. Esatto. E quello, cioè, scopare. Esatto. Esatto. E non puoi per vari motivi, anche perché poi le macchine vanno in fascia protetta. Non è che puoi mettere lì, oh, ti allunghiamo il pene con questo, con questa automobile. No, non funziona. Cioè. Secondo me la pubblicità che funziona è mottela, è proprio semplice, minima. L'attenzione, questa te la rivendi, diventi ricco. La macchina, uno sale in macchina, la telecamera segue perfettamente la macchina in inquadratura laterale, la macchina comincia a correre, quindi si vede lo scenario che comincia, anda sempre più veloce, più va veloce e più la macchina si allunga perché diventa talmente veloce che si allunga, ed è questo il senso, capisci? La metafora è che tu corri e c'hai il cazzo lunghissimo. Sono d'accordo, è bellissima. Ho vinto ragazzi. La pubblicità di Alex sarà questa: enlarge your car. Esatto, adesso lanceremo la pubblicità. Va bene, quindi la disamina finale. Allora, Alex, chi deve morire, bestemmie? Dobbiamo morire tutti di bestemmie, secondo me. A parte il tizio americano che si è suicidato perché Finn è nero. Davvero? Diciamolo. C'è uno che ha scoperto che Finn è nero e si è sparato. Ma forse perché pensava a Finn, quello di Tron. Oppure Akbar Finn. Quello era nero, probabilmente. C'era un nero lì, però. Sì, però sì, non era Hack. C'era quell'altro, sì, c'era uno nero, è vero, però non mi ricordo. Ma sì, chi se ne frega. Gli americani di arte non hanno mai fatto, non hanno mai prodotto niente. C'è sempre un Kunta Kinte, che in realtà Kunta Kinte è uno spin-off. Aiuto, c'ho un mal di testa. Per la serie politically correct alla massima. È fatto. Poi c'è pure la canzone punta Kinte. Vabbè, allora dai, no, stanno uscendo le viscere di Marco, gli si stanno aprendo le cose dell'operazione. In merito a questo film, dai, chi salvi e chi muore di bestemmie, dai. Allora, così, almeno. Devo dirti la verità, un po' mi sento di salvare J.J. Abrams perché non ha fatto J.J. Abrams. quando ha fatto Star Trek ha detto: oh, guardate come sono io, metto lens flare anche nel culo di della tipa nera. Come però si ce l'ha messo pure qua, ma sì, molto meno. Uno meno. Io l'ho visto uno, ma in particolare, ma io alla terza volta ne ho visti un sacco, ma li ha visti, ma proprio li ha messi proprio così, proprio minimal. Spruzzetti. Ci ha messo spruzzetti di merda così. Ha fatto una regia molto statica, molto lucasiana, per cui ha rispettato molto il brand. Vabbè, è stata aderente. Esatto. Sì, è vero. Ho adorato Rey, per me quella ragazza è proprio bella e figa. Mi ha fatto cagare Poe Dameron, il più grande pilota della galassia, vuol dire. Oh, lui è un pilota bravo. Su questo vorrei dire una cosa. Vai. Su quella che secondo me è un grossissimo errore. Fallo finire, non interrompere. No, vai, interrompi. Al massimo ti ammazzo di bestemmie. Mi ammazzi di bestemmie. Esatto. Che io non sono un esperto di cinema, ma tu quando praticamente fai sparire un personaggio e fai credere a tutti che è morto, è probabilmente... Ma non c'è creduto nessuno, no? Infatti, ma non poteva crederci nessuno, visto che hai fatto 200.000 trailer dove lui faceva di tutto e di più, insomma. Lo sai che quelle scene erano nel film, ce ne stavano un fottio. Quindi il fatto che non hai poi citato, non hai fatto vedere lui come si è salvato, ma bastavano veramente 40 secondi a scena, due o tre scene così proprio a buttare Hanno tagliato un po' di roba comunque, per farlo durare 2 ore e un quarto. Poi ci fanno uno spin-off poi. Sì, no, il problema è che sì, come dice, cioè, secondo me sto film gli è durato troppo. E Disney, cioè, pure lì, parlare, è nato de forbice. Volevo parlare di Lupita, anche con Punta Quinta, quella che ha fatto la mascherata là. Che praticamente Punta Quinta ce n'è uno solo. La cugina Stefana, quella Stefana Punta Quinta. Che praticamente ha fatto. L'avevano presa perché il suo personaggio doveva praticamente accompagnarli lungo tutto il viaggio, quindi non doveva restare lì sul pianeta. Poi a un certo punto hanno detto: ma lo sai, alla fine sto personaggio dal pianeta fino alla fine del film non fa più un cazzo, quindi sta lì a fare il sottofondo, tagliamo tutto. E quindi praticamente questa l'hanno presa, che hanno fatto la stascella, e cioè, grazie, buonanotte al secchio. Quindi è molto bella questa cosa. Vabbè, Alex, continua. Quindi salvi un po' J.J. Abrams, che deve morire di bestemmie a prescindere, però. Sì, Jar Jar Abrams, sì, per altre sarebbe, cose, sì. Sarebbe già dovuto morire. Esatto. Ma sì, secondo me è il terzo clone questo, con tutte le bestemmie che tu gli hai tirato. Anche tu da solo lo potevi uccidere con la forza del pensiero. Abbastanza, dici, certo. Esatto. Allora, Finn, boh, così. Mi è piaciuto abbastanza Han Solo, che è Jan. Ma comunque è arrivato col punto di essere quasi al limite di essere una macchietta, per cui mi è piaciuto molto. Sì, il è cattivo. Stato molto borderline, ha rischiato esatto. Tantissimo. Mi è piaciuto il cattivo, tanto su me lui, ma ha fatto cagare Andy Serkis. Proprio Andy Serkis fa cagare, e tutti i fan del Signore degli Anelli dicono: Andy Serkis, Gollum, andate tutti a cagare. Ok, proprio dovete morire di bestemmie pure voi. Dovete morire di bestemmie anche i miei ascoltatori, va bene, chi se ne frega, oh. E io, i miei più cari amici sono dei fan di Signore degli Anelli, quelli che recitano a memoria tutti i passi del film, bla bla bla bla bla bla, morte, va a morire, che te devo dire, de bestemmie. Poi cosa salvo? La musica non mi è piaciuta, cioè non c'è niente, il trailer aveva più musica che il resto del film. Poi dal punto di vista tecnico è interessante, perché sembra un film molto analogico, nonostante ci sia tantissimo intervento digitale, c'è stato uno sforzo perché non si vedesse molto. Ma infatti stonano i personaggi digitali. Mads Kanata, devo dire che in 3D è peggio che in 2D. In 2D si regge bene. Mascherata, per farvi capire. Andy Serkis no, fa cagare. E il tipo che sta dietro il bancone, quello che dà le porzioni di cibo in cambio dei rottami, siamo lì. Non è sicuramente la cosa più forte del film, ecco, mettiamola così. Bene, Marco? Beh, allora, tutto sommato, il film ha fatto il suo sporco lavoro. Il film è anche un bel film. Sì, cioè. Sì. No, allora, è un film che comunque, se tu passi sopra al 70% del film, può anche piacere. Cioè, tutto sommato, no. Se passi sopra al fatto che è un film di Star Wars, cioè, perché. Sì, vabbè, comunque, però, come abbiamo detto, in realtà con Star Wars puoi fare tutto, a differenza di tanti altri film che sono molto più canonizzati in una mitologia ben precisa. Allora, diciamo così, la storia ci potrebbe pure stare. Ma sì. Come l'hanno raccontata quella grazia dei millimetri quadri? Film, no. Cioè. No, vabbè, quella è perché Abrams si deve comprimere le cose. Ma non è soltanto, è proprio che nessuno oggi si vuole mettere tempo a spiegare le cose, a dare un senso a quello che succede senza metterci due ore, senza praticamente fare delle cappellate in mano, e quindi tagliano. Vabbè, questo è un po' il problema di cui ha citato Alex insomma all'inizio, che il problema è, quindi tutto sommato sono cinesi i problemi. Io lo promuovo anche questo film, però per di Motte sei salvato, mo basta veramente. No, io salvo il film nel senso che nell'insieme non è che mi è dispiaciuto, tecnicamente è un grande film. Come dice Alex, secondo me nelle prime anche mezz'ora il feeling Star Wars c'è, cioè nel senso te lo dà un richiamo, ma anche più avanti, diciamo così. Mi dà sempre fastidio il fatto che tu devi leggere i libri per capire perché, se c'è la Repubblica, la Resistenza è rimasta, la ribellione è rimasta Resistenza, cioè nel senso, e non fa parte della Repubblica perché c'è un motivo. In realtà me l'hanno poi spiegato. Poi andatevi a leggere i libri, perché dovete morire bestemmie comprando i libri. E la cosa che veramente mi ha intristito è così: è la morte di Han Solo, che comunque ribadisco, avrei. Era proprio quello che mi aspettavo da un film di J.J. Abrams, cioè la morte da coglione, perché poi è morto da coglione, anche se tutti vogliono dare una visione cristologica a questa fine, che il figlio e tutto quanto, e vabbè, non vi spiego ulteriormente, già vi abbiamo detto fin troppo. Ma avrei preferito una morte più epica per uno come Han Solo. Esatto, la cosa fondamentale. Forse se lo meritava, no? Nel senso. È più epico quando viene congelato nella grafite che quando muore. Esatto. Ma il problema è che un personaggio del genere, però, era quello che io avevo scritto 2 settimane prima che uscisse il film. Cioè, avevo scritto esattamente quello che è stato, quello che poi in realtà mi aspettavo, perché oramai lo conosciamo il mostro, no? Nel senso, lo abbiamo capito come lavora, come funziona, e come poi, tra l'altro, vuole. È talmente anche presuntuoso rispetto a se stesso che il suo mito sopravvive anche al mito di quello che sta facendo, e questa è una cosa che io detesto profondamente. E quindi Abrams, ricordati che devi morire di bestemmie. La scena della tizia che porge la spada laser verso Luke Skywalker, e Luke Skywalker che è chiaramente stato preso da sotto al ponte 10 minuti prima con Barbon, e che stringe gli occhi e dice: che mi stai a dare, bottiglia di Barbon? Ma ricordiamo che stava insieme a lei, poi questa cosa, che le scene che stanno lei, che hanno girato con Mark Hamill, l'attrice che interpreterà, gli hanno detto: guarda, non dire usa la forza, o quando devi dire la parola forza sostituisce la parola Barbon. E così, cioè, ma se vedi il labiale, non ti preoccupa, poi ci pensiamo in post produzione. Quindi questa è una spiegazione di ciò che vedrete nel post. Usa il Barbon, lui è tutto contento. E io dammi a usare il Barbon, ok, lui. E comunque posso dire, io sono un fan infinito di Harrison Ford. Per me, io andrei a vedere anche le commedie di Sali Olio se c'è Harrison Ford. Però questa volta è l'unico personaggio che esce con un po' di carisma, è proprio Mark Hamill. Perché comunque nessuno non fare un cazzo e fare la mono espressione di mi sta dal Barbon, c'aveva un non so che di sommo di Jedi, insomma, che alla fine gli altri non avevano. E vabbè, e lei, la principessa Leila, è, io lo so che tutte sei incazzata perché su Twitter tutti hanno detto quanto sei brutta, però veramente sei invecchiata proprio brutta, cioè mi dispiace. Ragazzi, la droga fa qualcosa, non è che ti puoi drogare come una pazza, bere come una pazza e poi essere un fiore a 70 anni, dai. Esatto, non sei Mick Jagger, insomma. Io vi invito, se avete l'opportunità, di rivedervi la scena in cui Harrison Ford la abbraccia e tiene la testa lontano dal puzzo di alcol. Lo devi almeno mettere una mentina in bocca. Ma no, ma lei ce l'ha addosso, capito? Non è solo l'alito, capisci? È proprio i capelli. È come quando mangi aglio la sera prima. Cioè, ti lavi i denti, però ti esce dai pori. Va bene, allora, avete sentito all'inizio? Vabbè, comunque morti di bestemmie Star Wars. Facciamo morire proprio in appendice, diciamo che ce l'avamo dimenticati. Facciamo morire di bestemmie anche la Paramount e Steven Spielberg, George Lucas, Lucasfilm e la Disney. Lucas non c'è più stavolta, non è più colpa sua. No, però Lucas è comunque responsabile, perché lui ha venduto senza motivo tutto questo a Disney, e Disney sta facendo tutto quello che vuole, anche perché io penso che per il patrimonio di George Lucas, la vendita della Lucasfilm, per quanto sia il costo di un PIL di una media nazione, penso che non gli abbia fatto differenza, tant'è che lui dice di averle anche devoluti questi sì. soldi. Però comunque, detto questo, vero o non vero, lui comunque ha venduto, e Spielberg, che sapete, noi oramai lo infamiamo da 10 anni almeno, meno 10 anni, no, forse un po' di meno, un po' di meno, che Spielberg è stato un grande maestro del cinema, perché tecnicamente ancora è. Tecnicamente è ancora, secondo me, un grande maestro. È un grandissimo comunque regista lui, cacchio se è bravo, porca miseria. Cioè, nel senso che lui riesce ancora a fare quelle cose che faceva e le migliora di volta in volta. Il problema è che quando arrivi a una certa età, soprattutto in America, che hanno un'alimentazione basata sugli hamburger, i cheeseburger, i bacon burger, che alla fine è tutto il cervello, capito, ti sei inseppato di grasso, è chiaro che non c'è più ossigenazione e diventi stupido. Allora, noi, diciamo, ci abbiamo avuto Terranova. Bello. Terranova qual è? Ci abbiamo avuto Falling Skies, che è prodotto da Steven Spielberg. Ricordiamo, è importante questa cosa. Poi abbiamo visto i vari, non so se ha fatto qualche Jurassic. No, ah, poi con CG. Lui ha, no, diretto... ha fatto Indiana Jones 4. Ha fatto Indiana Jones 4, ragazzi. No, che, no, diciamo... questo non è mai esistito. Wolfenstein è una leggenda. No, Indiana Jones 4 lo ha fatto e lo ha girato lui. Tecnicamente, sempre grande lavoro, ma. Cioè, A me ha fatto cagare anche tecnicamente, devo dirti la verità. Ignobile. Vabbè, la scena degli inseguimenti era molto fanservice, quella degli inseguimenti in auto e tutto quanto ricordava molto Uncharted, tra l'altro, però, o forse Uncharted ricorda Indiana Jones. Però comunque, insomma, ha fatto delle cose ignobili negli ultimi periodi, perché appunto diceva un problema di alimentazione. E allora che ha detto? Facciamo Indiana Jones 5. Perché la Disney paga, e giustamente lui, che ancora non ha capito che è ora di smetterla, cioè George Lucas l'ha capito. Perché tu non l'hai capito? E cioè, l'ha capito, però spieghiamo bene questa cosa, che George Lucas, poi dopo che ha venduto tutto quanto e ha detto che il film gli ha fatto cagare e ha detto che devono tutti morire bestemmie, e ho venduto le miei figli, è come se avessi venduto i miei figli a uno schiavista bianco, perché, ma lo sapeva prima. Esatto. Ma soprattutto dopo che hai venduto tutto quanto la Disney a uno schiavista bianco, è inutile che vai alla Disney e gli dici guarda, io ci avrei l'idea per episodio 7, perché la Disney giustamente quello te fa Umbrella Gestor, insomma, portati via però tutto la roba, tu mi metti questa cosa, questi fili addosso, sai? Vabbè, dai, detto questo, Indiana Jones 5 pare che sia ufficiale, pare ci sia anche dopo gli alieni, Harrison Ford, non lo so, vanno nello spazio direttamente, ma Harrison Ford però ha detto ci stiamo pensando nello spizio insieme a Gunta Kitt, può essere che ripercorrerà la storia di Gunta Kitt, e vabbè, e quindi insomma, che cosa ne pensi tu, Stefano Raccuglia, di questa cosa di Indiana Jones 5? Allora, posto che poi credo che manca un numero, tra l'altro, dal 3 al 5, esatto. Sì, sì, allora devo dire che un mio parallelo in un altro universo, circa un mese fa, ha riguardato i primi tre, cioè gli unici tre Indiana Jones, mi son piaciuti, anche se hanno un ritmo che è proprio molto XX secolo, mentre il cinema è cambiato molto nel XXI. E ho intravisto questo fan movie, credo che sia Indiana Jones 4, i cazzi di cristallo, non lo so. E devo dire che ho trovato più invecchiato questo fan movie, che è più recente, rispetto agli altri tre. E sono riuscito a vedere i primi 25 minuti, poi dopo mi sono proprio rotto il cazzo. Dicevo, ma che è sta merda? Che è sta merda? Che è sta merda merdosa? Anche perché poi c'è pieno di cliché che non sono più attuali. Cioè, forse negli anni 80 il russo che parlava, poteva sì, ma secondo me era proprio quello che volevano fare, proprio questo. Sì, però è venuto fuori impolverato, brutto, questa cosa qua. E devo dire che per quello. Ma è la stessa cosa di Chekhov che parla russo su Star Trek. Vabbè, ok, questa è la tua religione, la mia è un'altra. Io se faccio sto mestiere perché per i predatori dell'arca perduta. Detto questo, posto che peggio di quel fan film è difficile che possano fare. E posto che comunque Guerre Stellari me l'hanno tirato su abbastanza bene, gli do la fiducia di, però non ci vado al cinema, non ci vado proprio al cinema, mentre Guerre Stellari sì, Indiana Jones 5 no, a meno che tu vai al cinema e dici che figata il film dell'anno e non è una presa per il culo, allora magari vado a vederlo, però no. Cioè andrò al cinema, ma non dirò che è figata il film dell'anno, già lo so, insomma. Ok. Anche se io ti devo dire che Indiana Jones 4, quando c'era il cappello che rotolava e lui lo raccoglie con la musichetta di Indiana Jones, io sono emozionato, perché in realtà io sono più fan di Indiana Jones che di Guerre Stellari, quindi. Chiaro, ma secondo me alla fin fine per certi versi Han Solo e Indiana Jones sono la stessa persona. Esatto, cioè, due gemelli separati dalla nascita. Modo, sì. perché ripeto, come si comporta soprattutto in quest'ultimo film, Han Solo è veramente un cazzone, ma proprio un cazzone cazzone, che non era così cazzone negli altri film, sembra un po' più maturo, pure invecchiando l'hanno fatto diventare un po' più cazzone, un po' più... più Disney, più mandamolo in vacca. Sì, però devo dire che Disney è anche quella che nel bene e nel male fa quelle cagate di Avenger. Comunque posso fare una domanda? Sì. Tu, no, fra 70 anni, quando da vecchio rifarai quello che facevi? Fra 70 anni ragazzi? Avrò 111 anni, non credo di sarò fra 40 anni, 50 sì. anni. Che okay, quando farai le cose che facevi da ragazzino, ti rimetterai la stessa camicia e lo stesso gilet? Sì, penso di sì. Cioè, dove l'hai lasciato? Che è tutto perfettamente uguale. Beh, siccome personaggi dei fumetti. Eh sì, è vero. Eh sì, certo. Addirittura c'era una puntata di Braccio de Ferro, ancora mi ricordo, che Olivia a un certo punto apre l'armadio, non so cosa vestito mettermi, erano tutti uguali i vestiti, no? Questa è proprio l'apoteosi del... Vabbè, ma anche sti cazzi, quindi anche Spielberg prima o poi dovrà morire di bestemmie. Poi il giorno in cui morirà ci dispiacerà, perché insomma sarà morto di bestemmie. E mentre che attendiamo di fare la puntata speciale sulla morte di William Shatner, che insomma ricordatevi che abbiamo il coccodrillo pronto da anni. Esatto, sta lì il giorno stesso, ma il minuto stesso in cui muore William Shatner noi già siamo online. Perché avete presente che su internet ogni giorno ci dicono se rip qualcuno, poi in realtà non è vero. Cioè, Simone ogni volta carica la puntata e poi dopo e gli poi dico, leva, che leva. Non è vero, non è vero, leva. Esatto. Va bene, andiamo alla seconda rubrica, che è quella di ridateci il tempo perduto. Allora Marco, no, tempo fa io ho fatto, ma Marco non lo so chi è, Stefano Gualdi ha visto recentemente un fan film di uno che si diverte a fare queste cagate, lo diciamo proprio. Io sono anche Stefano Raccuglia lo sa che fa delle cagate. Sono così cattivo nel dire che siano delle cagate, anche perché la cagata in sé ha comunque una sua dignità. Esatto. E con cima, esatto. Ha comunque un senso, cioè ci sono insetti che qui neanche quello nutriti. No, quindi qui praticamente quello non serve un cazzo, perché dopo il fan film di Monkey Island questo tizio ha deciso bene di farlo. Si 10 minuti a Monkey e si scrive Monkey, M-O-N-C-H-I, Monkey Island, esatto. Monkey Island, che praticamente subito dopo, ma tipo una settimana dopo, perché lui tra tempo di produzione e post produzione, tra una cagata e l'altra quanto tempo fai passare? Beh, un giorno. La settimana è pure troppo, la settimana ci ha messo tanto, e vabbè pure la pre-produzione ce dobbiamo anche mettere. Ha fatto questo fan film bellissimo. Effetti speciali a go-go su Another World, che è chiaramente un gioco della Delphin Software Cinematic degli anni 80, Alex, non lo pare, giusto? Sì, credo che sia, no, secondo me è già inizio anni 90. Era l'amica comunque. Sì, l'amica. Che hai ragione, però io non mi ricordo. Adesso cerchiamoci su Wikipedia. Che è un gioco storico, forse tra i top 25 della storia dei videogiochi. Sì, sì, cioè, assolutamente. È un must che io me lo sono rismammettato recentemente. In realtà, se tu. È del 91, comunque. È del 91, vabbè, sì, quindi alla fine degli anni 80. Insomma, alla fine. No, 91. Alla fine degli anni 80. sì, è vero, stavo prendendo. Vabbè, dai, fine anni 80, inizio anni 90. Facciamo così. Va bene. Comunque, questo gioco, se tu lo vai a fare, in realtà in 3 ore l'hai finito, no? Però ci sembrava infinito perché era difficilissimo, quindi insomma era molto complicato ed era proprio molto cinematografico, cioè era piaciuto tantissimo. Allora usava questa tecnica vettoriale ed è stato un mito, con una colonna sonora meravigliosa. Abbiamo fatto una puntata su archeologia videoludica proprio dedicata, insomma, che c'era pure Stefano Raccuglia, se non mi sbaglio, che c'aveva, anche tu c'eri, no? Non mi ricordo. Non mi ricordo manco io. Forse vabbè, c'era Alex Raccuglia, mi confondo con uno che mi ha stesso cognome. Stefano Raccuglia, hai ragione, sì. E vabbè, e abbiamo visto questo. Ho visto questo film. Questo ennesimo veramente film. Che stavolta neanche il trailer ha fatto proprio direttamente uscire il film. No, pensavo che fosse il trailer, invece no, è proprio un film. No, perché finisce, cioè proprio 5 minuti. 5 minuti che nessuno potrà mai ridarmi indietro. Nessuno potrà mai ridarmi indietro quei 5 minuti. Neanche te stesso, che hai visto fino alla fine, fino all'ultimo fotogramma. Assolutamente. In realtà ce ne sono altri 5 di backstage. Esatto. Perché praticamente è inutile, poi, tra l'altro. Perché è uguale alla parte. Cioè, mi fai 5 minuti di film. E 5 minuti di backstage, vedete, mi riproponi il film senza effetti speciali. Senza la correzione colore. Ma parliamo degli effetti speciali, Alex. Tu che sei. Non lo so se l'ha visto Stefano Raccuglia, se l'ha visto il film. No, Alex, il film l'ho visto. Ah, Stefano l'ha visto? Sì, se Stefano Raccuglia ha visto. Adesso parlerò in terza persona perché. Ma sì, se no, così ci confondiamo ancora meglio. Mamma mia. Allora, io ho sempre detto che bisogna dare fiducia ai giovani. Perché. Vabbè, ma non è neanche più giovane. No, fammi finire, dai. Allora, io dico: cioè, se tu sei un pischello e fai questi i fan film e ti servono per imparare. E man mano che li fai, perché questo mestiere, fare il regista, fare gli effetti speciali, il montaggio, li impari solo facendoli. Cioè, nel senso, puoi studiare un sacco di teoria, ma finché non metti le mani sulla cosa, finché non capisci quali sono gli errori che tu compi, non vai avanti. E insomma, questa cosa ti serve. Non li capisci, che è brutto. E tu cosa ti serve per crescere? Io la cosa che mi dispiace di questo filmmaker è che non vedo un miglioramento. Di Stefano, il filmmaker si chiama Stefano. Sì, Stefano, che lui. Sì, Stefano, caro mio omonimo. Non percepisco una crescita. Ma perché non gliene frega un cazzo? Allora, io non so se lo fai in cattiva fede, spero di no. Perché sono. Ma no, in cattiva fede no. Ma no, dici, certo. Faccio sta roba così perché ho un sacco di like. Che un conto, se fai 1 milione di views, allora dici, vabbè, ti paghi qualcosa. Se però non hai questo 1 milione di views, vediamo quanti ce ne ha sto coso qua, Another Wolf in Fanfui. No, il problema è che lui poi alla fine riesce a smuovere anche personaggi importanti, tipo gli autori stessi dei videogiochi, che magari ritwittano l'opera dicendo, ah, che bel lavoro, che in realtà, voglio dire, cioè, nel senso. Io ho un pensiero ben preciso su questa questione, ma non ne ho già parlato in un altro podcast tipo Calavera Caffè, quindi se volete andatevelo a risentire, ma in ogni caso anche chi se ne frega, non è questo il motivo per cui stiamo parlando di questo, stiamo parlando proprio del film che a Stefano Gualdi è piaciuto proprio tanto. Mi è piaciuto tantissimo, cioè, quando c'è. Però tu, noi sai che non l'hai potuto apprezzare. Perché non l'ho giocato? Perché no, ma non hai forse neanche visto le intro, le sequenze, neanche su YouTube. Perché in realtà alcune cose sono anche. Gli dice, ci ha messo quel pizzico di cura per fare almeno le inquadrature. Però è veramente Alex. Che scopo. Alex, anzi Stefano Raccuglia, che noi conosciamo, uno che si chiama Alex G. Raccuglia, che quando negli anni 80 anche lui faceva queste cose, forse erano anni 90, queste cose le faceva da ragazzino, le faceva meglio, cioè quella cosa. Sì, forse comunque un paio di cose mi sono uscite anche meglio, devo dire la verità. Sì, Scar sì, Scar aveva un sacco di difetti, però almeno era. Aveva una sua dignità per certi versi. Almeno era lavorato, c'era un'idea. Cioè, non è che qui ci sono i template dei videohive.com.net, insomma, cioè quello del DNA, cioè quello è un template di After Effects. Veramente io non riesco a capire lo scopo di questa. Di questo lavoro che lui fa, perché lui si sbatte anche per fare una cosa fatta piena di preset, di cose già preimpostate, che per carità lo faccio pure, ma io lo faccio per cazzi miei, no? Per farmi il filmino mio di Matteo che va a cavallo, non c'ho la pretesa di fare Another World e farlo vedere a come si chiama, Eric Stefan Cahill per fargli vedere guarda che bello, oppure che ne so, a David Fox o a Robin, a Gilbert, sì, insomma, a via dicendo, cioè, non riesco proprio veramente a capire l'operazione, cioè questa cosa molto molto autocelebrativa, no? Del fatto, ho fatto il fan film, che il fan film è un'altra cosa. Io ho visto dei fan film su Indiana Jones, alcuni anche tecnicamente ben fatti, cioè nel senso, se lo vuoi fare una cosa, falla, mettiti, ci impegnati, o roba del genere, non fa una macchiettatura con delle voci sotto in voice over che hanno un senso che trovano, boh, io non lo so, veramente non capisco. Comunque, vabbè. A voi. No, vabbè, morto di bestemmie. Morto di bestemmie, assolutamente, perché aspettiamo, che ne so, il prossimo su Pac-Man, magari. Sì, esatto. Bisogna dire che nella patria che ha dato insomma, i natali al fan film su Metal Gear Solid. che era tutto un altro, capito, e quell'altro di Star Wars, che erano delle grandi opere con tanto cuore, e infatti hanno preso anni per essere completate, non settimane, anni. Secondo me è giusto, ripeto, a me manca il miglioramento. E lo so che detto così sembro l'insegnante che vuol fare l'insegnante, e potrei anche essere preso a bestemmiate da voi pubblico, ci sta anche. Però ripeto, io all'inizio lo incoraggiavo, adesso mi sono detto sì, però cioè, fammi capire qual è il tuo... Boh. Però è il focus della questione. Sì, vabbè, esatto. No, ma è così. Non solo siamo fuori dalla cricca, ma non abbiamo neanche peli. No, infatti, poi i peli. No, va bene, dai, quindi nessuno ti ridà questo tempo. A te, Alex, te lo ridaranno questo tempo? No, infatti vorrei andare dove l'hai visto. No, ma io l'ho visto. Non ho visto il making of. Allora, nessuno ti... Hai visto anche il making of? No, non l'ha visto. No, il making of non l'ho visto. Vedilo. Vabbè, quindi ma no, a lui gli hanno rubato 5 minuti, a te 10. No, a me 2, 5, no. Io la seconda parte non l'ho vista. Ah, non l'hai visto manco tu il making of? No, io invece sì, ho visto. Quindi a me sono quello. Io sono andato peggio di tutti. Sono quello più inculato di tutti. Insomma, mamma mia, che inculato. 10 minuti della mia vita che nessuno mi ridarà. Avete sentito a inizio trasmissione, prima della sigla, un'introduzione che spiega praticamente un discorso mitologico, che darà il nome a una rubrica che dalla prossima puntata in poi ovviamente racchiuderà una leggenda metropolitana. Per introdurre ovviamente questa cosa abbiamo insomma deciso di chiamare questa rubrica La morte del tapiro, che questa puntata non c'è perché ovviamente... il sangue del tapiro, cioè il sangue del tapiro. Che schifo, neanche i titoli delle rubriche. Ma non mi ricordo un cazzo, perché vabbè, quindi... Alex, sì, dai, vabbè, dai, oramai è andata a puttana questa cosa dello Stefano. Dobbiamo metterci di impegno. Allora, diciamo, prima di salutare il pubblico, diciamo dove trovarci. Su Facebook, Morti di Bestemmie, così. E potete scriverci e mandarci le bestemmie, veramente. Noi potete anche mettere l'hashtag cancelletto MDB, che sta per Morte di Bestemmie, che noi capiamo. Se uno dice Stefano Raccuglia MDB, cacchio, hai ragione, morirò di bestemmie. Esatto. Anzi, se volete segnalarci per qualche ragione un morto di bestemmie, ce lo segnalate tramite Twitter scrivendo nome e cognome di quello che deve morire di bestemmie con chiaramente hashtag MDB, e noi ovviamente ci approfondiamo e poi dopo ne parliamo. Insomma, certo. C'è anche il rischio che perderemo del tempo inutile a fare questa cosa e quindi vi bestemmieremo anche a voi, esatto. Dicendo, perché non c'hai idea chi ci ridarà il tempo che abbiamo perduto per cercare le strozzate su questo. Potete anche scriverci su mortidibestemmie@gmail.com. ma perché tiri fuori le mail, che tanto non ci scrive mai nessuno. Infatti, vabbè, andate, cioè, c'è pure la mail se volete. Il primo che ci scrive una mail gli regalo il libro del capo, dai. Infatti io il libro del capo ho detto il capo scritto da mio omonimo Alex Raccoglio, dai. Quindi, allora, poi se volete cercare anche Stefano Raccuglia, lo cercate con l'hashtag Stefano Raccuglia. O Raccuglia Pentiti. O Raccuglia Pentiti, forse è meglio, è più accurato. E c'è anche Stefano Gualdi che ci saluta. Io vi saluto, spero di riprendermi perché le interiere mi sono uscite questa per sera. Ridere, da ridere. E anche dalla rabbia e dalla mortezza di bestemmie. Ok. La fortezza di bestemmia non si va a sentire. E vi saluto anche io, Simone. No, Stefano Pizzi. Tanto non ce la farò mai a fare questa cosa. E spero che questa prima puntata vi sia piaciuta, perché il tenore sarà sempre questo. Forse peggiorerà anche, perché in realtà ancora siamo un po'. Come dire, dobbiamo un po' scaldarci, diciamo così, per entrare proprio nel clima. E un giorno io confido, anche se lo dico sempre su tutti i podcast, però con Alex ci impegneremo, Alex che è un mio amico, voi non lo conoscete, che sarebbe figo veramente farla in diretta questa trasmissione, perché sarebbe figo. Ma durante secondo le vostre chat si può fare. Sì, si può fare. Se ce la fanno gli altri, ce la dobbiamo fare pure noi. Netflix, infatti, permettendo. Voglio dire, è ridicola sta cosa dopo 6 anni di podcast, insomma. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Non molti troppo di bestemmie. Morti di bestemmie. This podcast has been produced with Pod Cleaner. Io pensavo a diversi penso Stefani. Penso che era per questa sta sì, cosa. Sì, proprio insomma. Per Paganini, effettivamente. Esatto. E quindi è un po' un morto di bestemmie anche Paganini. Insomma, beh, ma Paganini, dire, no? Le morti di bestemmie, cioè è un miracolo che si, ancora, che si respiri ancora. Che ma secondo me state scaricando i pornazzi di Dio. No, non stiamo a scaricare niente, è tutto chiuso. È colpa di mia moglie. Ah, che ha combinato? Fa vedere Netflix. Ah, non mi senti? Mi sento male, male, male. Ma che palle, figa. Nel 2015, 2016 sta roba. A morire di bestemmie, di merda. Da quando avete comprato va di merda. E se l'NSA ci sta sentendo, vi ficcate il dito nel culo. Anzi no, prendete il dito medio, lo mettete, ve lo leccate bene, poi lo infilate nel sale grosso e poi dopo ve lo infilate su per il culo. In culo. Impanate il dito medio nel sale grosso, ecco. Nel culo. Io ti vedo verde. Ma non devi fare nomi e cognomi. È meglio che non fai nomi e cognomi. Cioè, se no gli dai troppa pubblicità, capito? Cioè, secondo me. Però tocca parlare del film. Del film, sì. Film. E mica lo possiamo rivedere. No, no, no. Dopo il clamoroso e ingiustificato successo del primo volume, tornano le avventure del capo nel nuovo capolavoro di Alex Raccuglia, Il Capo Libro Secondo. 200 pagine completamente illustrate, con nuove avventure, approfondimenti, prefazioni e la storia di tutti i personaggi. Muovetevi, siete sempre più incompetenti. Molto più spazio per i Minions. Capo, non beva altro alcol. Mannaggia, adesso il bug è sepolto per sempre nel codice. Il micio pomone. Neng? Il cane Palf. Uff, uff, uff, un chiappola. E soprattutto la fidanzatata Mickey Contro. I Minions, venite qui subito! E in esclusiva, la graphic novel animata Il Viaggio Definitivo. 20 minuti di animazione lisergica allo stato puro. Il Capo Libro Secondo, scaricabile dall'iBook Store per iPad e Mac. Scopri di più su alexraccuglia.net/ilcapo. What?